Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pallone dentro! E arriva subito il gol del vantaggio dell'Atletico Madrid, la rete di Diego Costa. È chiaro che c'è grande delusione, sono tristi, sono delusi. Diego Costa e poi c'è la deviazione che manda dalla parte opposta a Biati il gol di Turan che riporta in vantaggio l'Atletico. Purtroppo la Champions non fa più parte di adesso e neanche del prossimo stagione. E arriva il gol, un altro gol dell'Atletico che fa 3-1 con la firma di Raul Garcia. Diciamo che io sono abituato nella mia vita di quando accade di alzarmi. Non è che ho molta scelta e poi non è che è morto qualcuno. Diego Costa che firma la sua doppietta, arriva a quota personale di 29 gol in stagione e 4-1. Pietrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti, microfoni già aperti, telefoni già aperti, 800 24 00 24. Mamma mia quanto odio i funerali sportivi, che depressione. Pierluigi Pardo, ciao. Dove stai? Barcellona. Ramblas. Albergo, preparando la partita, ma adesso tra un po' esco e poi mi congiungo con un ospite che sentiremo. Sarà un momento di grande cambiamento. Ascolta, tiro sport nazionale oggi, ovviamente tiro non al piccione ma al Milan, al Milan in generale, a Balotelli e magari a Seedorf in particolare. Se servivano anche degli schiaffoni per certificare la fine del Milan come squadra di alto livello, abbiamo anche questi, insomma, oddio, niente di inedito, già era successo, ti ricordi le stagioni del Capello bis, del Sacchi bis, altri cunicoli il Milan li ha vissuti, però a Madrid la sintesi comunque della fine, punizione anche fisica quasi. Ma io dico anche però una cosa, che qui adesso non è che uno deve pensare con i termini dispregiativi al tiro a piccione, cioè uno giudica quello che vede, è proprio della vita degli sportivi, nello sport più che in altre cose, avere degli esami, e questi esami o li superi o non li superi, e se non li superi non è che ti puoi dire vabbè, vogliamoci bene ugualmente. È chiaro che non è morto nessuno, come dice Seedorf, questo non ci sono dubbi, perché le tragedie nella vita sono altre, però dal punto di vista sportivo quella di ieri è una disfatta, e secondo me se uno nella vita fa come lavoro il giornalista sportivo, il critico, non deve dire, se non lo dice a quel punto è imbarazzato al contrario. No, poi, ma certo, ma poi insomma, ieri è indifendibile il Milan, no, ieri. Indifendibile, perché si può uscire in tanti modi, si può fare un'altra figura. Avevamo raccontata, avevamo sottolineato le cose positive al di là del risultato. Ieri è la partita drammatica che chiude, che era già una bella di salvataggio di una stagione drammatica. Quindi adesso, certo, ma sai, probabilmente la cosa peggiore in questo momento è il fatto, ma anche questo Seedorf l'ha detto, di non avere speranze, no? Non ci siamo più quest'anno, non ci saremo l'anno prossimo. E dal basso dell'undicesimo posto della classifica è impossibile a questo punto, e cioè è un bene, raccontare altre bugie in giro. Intanto oggi ovviamente al tiro al piccione si sono uniti un po' tutti, vabbè, Formigoni, Silvio, o spendi o vendi, vabbè, ma soprattutto George Weah. Avrai letto, sì, avranno sì, letto sì. I twittatori folli di Weah, che la rete di tutti i colori, veramente uno scandalo questo Milan, mi dispiace davvero, ma io cambierei tutta la squadra e ricomincerei da zero. Domani, cioè oggi, i giornali cominceranno a parlare male di Seedorf, anche se lui non ha colpi in quello che succede. E poi adesso capisco le parole di Zvo al secolo, Zvo Boban l'altra sera, dicevo no, i ragazzi di oggi però non sono come siamo stati noi. Adesso io andavo a dormire col pallone, mangiavo col pallone, lui era il mio migliore amico. E non il denaro e il lusso stravagante, altre tante stupidaggini. Voi ragazzi, dice zio George, non godete il campo, non godete a giocare. Fate una cosa, andate a casa. Meglio che giocate con la PlayStation 4, lì siete bravi. E poi l'epilogo, scusatemi, dovevo dire tutte queste cose. Io sono stato giocatore del Milan, grazie a loro ho vinto il pallone d'oro, o Ballon d'Or, come scrive lui, e sono diventato UEA. Sì, allora la mia cosa è che non c'è niente di male a giocare alla PlayStation, e lo dico, sì. Da commentatore di tutti, no, scherzo, voglio dire, quella mia battuta, no, diciamo che c'è una parte, secondo me, di verità, poi ci sono, nel senso che sicuramente ci sono anche dei limiti caratteriali, di voglia, di grinta. Io credo che il riferimento fosse, forse capisco male, ma a Balotelli o comunque sì. A un certo tipo di comportamento di alcuni, a Balotelli e non solo a Balotelli, insomma ad alcuni giocatori poi esuberanti che nel Milan ci sono, no? Che sì, ma sono nel Milan e nelle altre squadre. Sì, però sai, Milan, la forza del Milan degli anni d'oro era questa struttura, questa solidità, questo spogliatoio un po' militare, un po' famiglia, almeno questo ci hanno raccontato, ce l'hanno raccontato. E adesso non è che possiamo dimenticarcelo, ci hanno raccontato che quel Milan lì era una famiglia e che c'erano delle regole ferree dei senatori, da Maldini, Ambrosini, Costa Curta, eccetera, c'è Barilli. Adesso qui, quelli non ci sono più, questo è un altro punto, Pierluigi, poi un altro punto. Un punto tecnico, clamorosa punto crisi tecnico, di leadership. Sì. Cioè, non è che se, cioè, voglio dire, non vorrei essere offensivo, però i limiti tecnici sono, non è che questa squadra è una squadra che va male solo perché sono comportamenti non giusti, come direbbe Spalletti. Una squadra che va male perché è scarsa, perché è media, certamente per l'alto livello europeo è una squadraccia. In valore assoluto, bah, leggi la classifica, undicesimo in Serie A, insomma, poteva essere qualche punto in più, ma voglio dire, il valore di questa squadra secondo me si specchia fedelmente nei risultati. Vabbè ragazzi, 800240024, adesso sentiamo il traffico, non quello di Barcellona dove si trova Pardo, ma quello sulle strade italiane, poi torniamo, parliamo con voi, parliamo con altri, eccetera eccetera, tutti convocati sempre. Convocati. Noi torniamo con Pierluigi Pardo a spasso sulle Ramblas. Com'è il mare di Barcellona? Com'è il tempo? Com'è il clima? Tempo sarà anche buono, ma il telefono non funziona. Pierluigi, spostati, cammina, vai, sentiamo. Sto spostando, meglio. Insomma, meglio. Fai qualche altro passo, meglio. Salutami Parenzo. Ecco, ma io ti abbraccio fortissimo, ma si sente benissimo, ma io ti abbraccio fortissimo, amico mio, e io sono qui. Michele da Milano invece è lì, buongiorno Michele. Michele? Dov'è? Attenzio Michele che ha il telefono, io confronto. Grazie, io chiedo indennità, divento matto con i telefoni. Chiedo veramente un direttore, dammi un'indennità, se no me ne vado. Michele? Sì, eccomi qua. Eccolo sì, lì, buongiorno. Grazie, ciao, grazie per avermi convocato. Grazie a te. Ecco, no, ho visto le immagini al TG2 sì. E devo dire che veramente Balotelli è proprio una vergogna, veramente. È una cosa vergognosa vedere come si comporta. Io da milanista mi auguro veramente che se ne vada via dal Milan il più presto possibile. Sì. Un comportamento veramente indecoroso. Ma a cosa ti riferisci esattamente? A quale episodio? Quando ha tirato la punizione e Abate, da gran signore qual è Abate, ovviamente, ha tirato la palla fuori, lui si è arrabbiato moltissimo con Abate perché diceva che doveva crossare. È veramente una vergogna. Balotelli è una vergogna. Boh, sarà, ma può essere sia una vergogna per altre ragioni, certamente. Ieri sera ha giocato una partita orripilante e questa è cronaca, in particolare su quell'episodio. Io ho detto quello che ha detto Balotelli, ma gioca sta palla, ma c'è lì l'arbitro, cosa continuiamo a sparare la palla fuori? Io in quel, da quel punto di vista ho detto esattamente la cosa che ha detto Balotelli, e gioca sta palla. Non ho capito, qui in Italia siamo abituati continuamente a sparare la palla contro i cartelloni pubblicitari, è una cosa che a me fa schifo, cioè è una roba che io fossi un presidente li multerei tutti, perché c'è un arbitro che ha il compito di fermare il gioco, e quindi Balotelli, se c'è un punto su cui ieri sera aveva ragione, è quello, poi per il resto ha fatto schifo. Sono d'accordissimo, e vabbè, diciamo che la mattina di ieri chiude la stagione, adesso l'obiettivo del Milan sarà l'Europa League. La dignità, dai Piero, la dignità. Sì, la dignità è l'Europa League, l'obiettivo minore. È un obiettivo secondo me importante, c'è chi la considera un fastidio, io la considero comunque utile. Il Milan, se riuscisse almeno tra, cioè secondo me al Milan conviene la League, se ci riesce, non è facile. E su Balotelli, insomma, io ribadisco che è arrivato il momento di fare un bilancio. Sì. La stagione è finita. Sì. La stagione al netto della nazionale, dove ci auguriamo che possa fare il fenomeno, la stagione è finita. Il bilancio numericamente è dignitoso, ma il bilancio vero, reale, visto che non tutti i gol pesano allo stesso modo, esatto, questo doveva essere l'anno in cui lui per la prima volta, perché non era mai successo, riusciva per tutta la stagione a prendersi per mano il reparto offensivo di una grande squadra, o perlomeno di una squadra che ambisce grande. Posso dirti, però non è neanche facilissimo quando giochi in una squadra così. Ora è vero, sei la stella, devi fare la stella, e allora non è una stella, e allora a questo punto trattiamo Balotelli come un giocatore discutibile. Ma può una stella brillare in una squadra così? No, allora io non dico che è colpa di Balotelli, non è solo colpa sua, questo è evidente, però io penso che i giocatori del Milan che devono fare la differenza sono lui e Kakà. Sì. Credo, no? Teoricamente il Sharawi che ormai è sparito. Vabbè. Però insomma, teoricamente sono questi due. Non è che puoi chiedere ad Abate di fare la differenza, no, non è certamente. Che puoi chiedere. Per cui Balotelli è stato preso con l'obiettivo di diventare una stella, con la speranza del Milan, un po' tipo quelle donne che cercano di cambiare di un marito fedifrago. Io ti cambierò, no? Ti cambierò, io ti renderò migliore, io ti renderò fedele, io ti renderò bravo padre di famiglia. E Balotelli non lo sta diventando dal punto di vista calcistico. E il bilancio, purtroppo, non è che uno lo fa oggi, non è un discorso di cinismo, ma è un discorso di analisi. Sì, auguro, ripeto, io spero che vinciamo il mondiale con tripletta di Balotelli. Ma anch'io, però il bilancio ad oggi è negativo, ma certamente. Questa è cronaca, certamente. Anche se, ad esempio, Ivan da Brescia, a proposito di stelle vere come UEA e di difficoltà in squadre che non funzionano, ricorda come UEA ha fatto parte del Milan di Tabaret Sacchi bis undicesimo ed eliminazione in casa con Rosenborg in Champions, e del Capello bis decimo in campionato. Anche questa è cronaca. Sì, è cronaca, però non ci prendiamo in giro, cioè voglio dire, qua allora ci sono dei giocatori del Milan che probabilmente al Milan sono sovradimensionati, cioè la dimensione di una squadra che dovrebbe essere grande per loro è troppo, e quindi questo è un segno della crisi del Milan in questo momento. Ci sono altri giocatori che devono fare la differenza. E non la fanno. E questo è un dato di fatto. Poi di Balotelli, perché chiaramente, ma finiamo di parlare di Balotelli, perché Balotelli dovrebbe essere l'uomo attuale. Prandelli sta costruendo la nazionale, che ci piaccia o no, cioè l'unico che non è mai in discussione. Sì, poi ci auguriamo che la nazionale sia qualcosa di diverso, di migliore rispetto a questo Milan. È chiaro che anche lui qualche volta è riuscito a fare la differenza da solo, hai ragione sul fatto che i gol non pesano, non sono importanti tutti alla stessa maniera. Però è anche vero che comunque gioca in è la presunta, molto presunta stella di una squadra. Fai un sondaggio e dici: dareste a Balotelli le chiavi della nazionale? Ma plebiscito, dai, ma oggi plebiscito. No, ma io lo so perfettamente, è plebiscito assoluto, un po' perché è stato le palle a quasi tutti, un po' perché effettivamente in questa stagione non ha fatto un salto di qualità che gli si chiedeva di fare. Marco Torino. Sì, buongiorno. Buongiorno. Fa molto piacere parlare con voi. Come già chiamato tutti fa dopo la partita dell'Atletico col Barcellona e abbiamo chiacchierato con lei appunto della differenza del calcio italiano. Sì. Ma ovviamente io ho pronosticato questo risultato. Ma sono dando proprio a livello europeo la differenza della forma della forza, della forma fisica, dell'aggressività che forse solo la Juve e in parte il Napoli in Italia riesco a vedere con la stessa intensità, aggressività. Sì, è vero, come ha denunciato Prandelli, sì, anche ma la Roma è molto intensa, questo si nota. Però secondo me, però sono d'accordo sulla cosa, sull'analisi in generale sono d'accordo. Sì, però voleva dire altro Marco? No, volevo solo dire questo, anche solo se questo. Tecnicamente c'è una differenza, fisicamente c'è un abisso. Sì, anche perché qui passiamo un sacco di tempo a tirare la palla sui cartelloni pubblicitari, ma sì, questo è un corollario, no? Il nostro gioco è molto spezzettato, il nostro gioco è diverso rispetto a quanto succede normalmente sui campi europei e sul piano internazionale, dunque questa, quando andiamo a giocare all'estero questa differenza è evidente, anche se non condivido poi fino in fondo discorsi epocali su come siamo depressi e quanto siamo deboli, ci sono gli anni delle inglesi, quelle delle spagnole, è chiaro che io piuttosto valuterei la distanza, ma l'ho già fatto ieri, l'ho già fatto nei giorni scorsi, sempre più abissale tra le pochissime e tutte le altre, Bayern, Real, Barcellona, che poi vediamo il Barcellona che dà segnali, poi ne parliamo, di declino forse. Poi c'è Paris Saint Germain, c'è Manchester United, ad esempio Pierluigi tu sei lì a raccontare questa sera il Barcellona e il Manchester City. Anche al City, che pure è dal punto di vista economico una superpotenza del calcio internazionale, adesso siamo qui a sparare addosso al Milan, giustamente, a sparare addosso a Balotelli, però questi che sono, dovrebbero essere nati per vincere, hanno preso due fischi in casa da un Barcellona, non dico moribondo, ma comunque con dei problemi, e stasera più o meno passerella. Sì, con responsabilità di Pellegrini oggettive. Poi c'è anche da dire una cosa, una volta un po' cinica nei confronti del Milan, cioè comunque noi non siamo stati, cioè noi eravamo tre italiane in Champions. Quella che per distacco è la migliore, e lo dice il campionato, ha giocato una pessima Champions ed è uscita. La squadra che ha giocato meglio la Champions ci ha avuto la sfiga di essere in un girone dove è uscito 12 punti, però per come aveva giocato si meritava sicuramente di passare il turno. E il Milan oggi è una squadra a metà classifica in Italia. Quindi alla fine svanita l'illusione che il blasone del Milan, la famosa musichetta, potesse colmare questo gap. Ieri era la partita per una squadra che sta giocando il campionato spagnolo da protagonista, lo potrebbe vincere, una squadra che è undicesima in Italia, cioè, sì. Questa è la verità dei fatti. Sì. Probabilmente se la Juve avesse passato il turno avrebbe fatto una figura migliore. Secondo me in astratto potrebbe anche passare il turno, cioè, secondo me è l'unica squadra italiana in questo momento che ha veramente quel tipo di dimensione, però poi è chiaro che non ha dimostrato, però i risultati sono quelli che adesso vediamo l'Europa. No, non è un dettaglio per niente, ma l'Europa League sarà un utile termometro, un utile cartina tornasole per valutare anche il reale status europeo della Juventus. Allora, borsa, poi torniamo, 800240024, Lorenzo da Vicenza, lei stia lì, arriviamo subito. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Ragazzi, vi aspettiamo a Napoli fisicamente, io e Pardo, venerdì, Fiera d'Oltremare, io, lui e degli ospiti, uno dei quali spero arrivi, mi dicono di sì, dovrebbe essere in campo domani sera, a Porto, Lorenzo da Vicenza. Ma Lorenzo, ma secondo lei è etica tirare il pallone fuori o è un inutile sfoggio di demagogia sportiva? È inutile sforzo, secondo me. Comunque salve gente, volevo dirle, l'intero concorde con Pierluigi Pardo il discorso di Balotelli, no? Sì. Siccome so che lei è un gran fan di Balotelli. È un giocatore che a me piace e mi piace anche oggi, non è che ieri ha fatto schifo, ma continua ad essere un giocatore che mi piace. Però secondo me io l'ho visto che sembra quasi che non ha più voglia di giocare, non ha più voglia, è un po' spento. Non ha più motivazione. Sì, non lei capisce, io da ammiratore di Balotelli, da uno al quale Mario Balotelli giocatore piace, le devo dire, se non ha più voglia di giocare a 23 anni in Champions League è meglio che cambia lavoro. Quello che vi dire, ho visto un po' così, un po' senza voglia, senza se una partita come ieri, una stella viene fuori. Se ha 24 anni non è più una. No, ma non, infatti io non cerco, cioè secondo me è inutile cercare alibi o scuse, cioè non ne esistono di alibi o di scuse, al di là del fatto che comunque è la presunta, molto presunta stella di una squadra totalmente oscurata in questo momento. Quindi non è che è impossibile trovare delle giustificazioni, e nessuno vuole trovare delle giustificazioni. Quindi ripeto, non so se Pierluigi ha avuto l'impressione che non avesse voglia di giocare, cioè se non ha voglia di giocare è da lui dà questa impressione, lui dà la sensazione che però poi diventiamo degli psicologi da strapazzo. Sì, è vero. Sappiamo che cosa c'è dentro la sua testa, certamente non ti dà l'idea di essere un ragazzo di 23 anni felice di giocare a pallone, questo è fuori discussione. L'impressione che dà è assolutamente diversa, è quella di uno che sta lì e che è in eterna guerra col mondo, che ovviamente gli mette pressione. Io questo e vabbè, ma la pressione fa parte di questo tipo di gioco. Cioè, ragazzi, questa cosa qui, il fatto di essere ricco, bello, di avere le donne, non toglie che poi se tu stai giudicando l'uomo devi giudicare anche il fatto che è comunque un uomo. Cioè, sì. non sono i soldi che ti possono preservare dalle paure o dalle minacce. Se tu hai degli stress, questo vanno rispettati. Certamente, detto questo, la differenza vera fra i grandi campioni e quelli che non lo diventano è anche nella gestione di questi stress. Ma chiaro, è quelli che sotto pressione riescono a far vedere che sono dei campioni. Perché, in generale, io su Balotelli credo che sia buono per tutti, soprattutto per lui, uscire dal giudizio etico ed entrare nel giudizio tecnico. Cioè, come abbiamo ripetuto varie volte durante quest'anno, la prima vittima delle sue cazzate in campo è lui stesso, che viene squalificato, perde occasioni, non entra in ritmo, accumula stress, è la prima vittima di se stesso e dei suoi errori comportamentali, è lui, non è un discorso da premio della bontà, cioè non è che no ma comunque io discuto il comportamento di Balotelli non fuori dal campo, che me ne frega niente, ma in campo e tu hai ragione, no? in molti frangenti è imbarazzante, soprattutto non sopporto quando un omone di un ragazzone di 1,90 m per 85 kg con quel fisico lì, come lo tocchi, cade per terra e frigna. Quella è la cosa che meno sopporto in assoluto. Detto questo, è anche giusto che la pressione ce l'abbia addosso e che impari a fare i conti con la pressione, sennò rimarrà sempre un mezzo giocatore, una promessa. E comunque la vera domanda adesso è la nazionale, sinceramente. Certo che è la nazionale. Quella è un'altra storia, però. Poi andiamoci piano, perché questi tipi qui io dico capace pure di fare fuori la grande prestazione, è quello che ci auguriamo tutti, ovviamente, no? Cioè, uno come lui comunque ha dei colpi che potrebbero ricordare Milan Bologna, la partita dove lui non struscia mai per 80 minuti, ma fa quel gol da 30 metri. Certo. Cioè, lui ce l'avrà sempre questa capacità di fare qualcosa. Il problema è che se lo fa ogni 5 partite rimane un giocatore in espresso. Questo alla fine è statistico. Sentiamo il nostro amico Paolo Condò, che è lì con te a Barcellona. Paolo? No, ma lo sto aspettando al ristorante. Buongiorno a tutti. Lo stai aspettando al ristorante? Beh, me lo tengo ancora un po', te lo mando tra 20 minuti. Spero sia già in taxi. Stavo in taxi, sto prendendo Francesca Benvenuti, adesso ci sarà un momento di Radio Verità, le grandi inchieste di tutti i convocati. Ma smettila, pagliaccio, smettila. Senti Paolo, ciao. Hai voglia di fare l'avvocato difensore? Non so, non credo. Milan Balotelli, guarda, Seedorf anche. Su Seedorf, secondo me, sta attraversando lo stretto passaggio da giocatore ad allenatore. Continua a parlare e a scegliere il buonismo con i giocatori. In questo momento, sinceramente, forse servirebbero anche altre parole. No, ma io ho una mia tesi che sostengo dalla scorsa estate, e cioè che la rosa del Milan, se non si chiamasse Milan, sarebbe una rosa alla quale non sarebbe lecito chiedere la posizione che attualmente ricopre, un decimo posto, tentare di stare dalla parte sinistra della classifica. Questa è la mia tesi. E quindi da Allegri prima, che oltretutto è stato molto delegittimato dalla società, quindi il suo compito era più difficile, a Seedorf adesso, dare delle colpe agli allenatori o facenti funzioni, ecco, non sia sbagliato, ma perché? Perché vorrebbe dire assolvere la società. Mentre invece secondo me è la società Milan che è mancata clamorosamente in questa stagione e che le vacche grasse siano finite, lo abbiamo capito tutti da tempo. Però comunque anche in periodo di vacche grasse Galliani era stato capace di portare al Milan Ibrahimovic, quello era stato un capolavoro, e di pescare Thiago Silva eccetera, eccetera. Pescare, ma quelli di erano Thiago Silva e... il fatto è che adesso le bugie non le può più raccontare nessuno, Paolo, esatto, le bugie non possono più essere raccontate, non puoi più spacciare onda per dire quello che è stato il grande acquisto mediatico di gennaio come un giocatore che fa delle differenze, perché Onda è un giocatore normalissimo, e l'insensatezza di comprare SN è emersa clamorosamente ieri. Che vuoi comprare un parolone? Quando sì, vabbè, insomma, comunque di fare un ingaggio, quindi c'è una spesa dentro al, adesso io non lo so, io spero ardentemente che SN sia stato ingaggiato per questi 4 mesi. Cioè, non vorrei mai scoprire che ha un contratto di 1 anno e 4 mesi, perché lì sarebbe veramente da manicomio. Sì, ma ecco, quello che voglio dire, Paolo, è chiaro che dimmi Pier. No, che alla fine la filosofia di Galliani in questi ultimi anni è stata la stessa, è solo che nel caso di Ibrahimovic ha funzionato, certo, che tu se hai un momento di difficoltà di budget hai due strade: o fai una rifondazione negli grandi, puntando su dei giovani e fai crescere un gruppo, oppure ti affidi a delle qualità dei giovani di mercato e anche al tuo blasone, perché è chiaro che Ibrahimovic e Balotelli, per fare due esempi, sono due giocatori che comunque, con tutto rispetto, non vanno al Chievo o al Parma, vanno solo nelle grandissime società. Il Milan ha questa porta che riesce ancora a attrarre giocatori molto importanti, solo che Ibra non l'ha sbagliato come giocatore ed è riuscito a campare di rendita praticamente per 2 anni e mezzo con la qualità di Ibrahimovic, e poi invece Balotelli è stato più che dignitoso, però Balotelli e Kakà sono stati 2 colpi di teatro che non hanno funzionato. Sì, ma sono anni che comunque il Milan mette queste pezze a costo zero, sai benissimo, anche Cassano, Kakà vale lo stesso discorso, Ibrahimovic venne acquisito con un meraviglioso castello di carte costruito da Galliani, quindi sono anni che il Milan prova a mettere queste pezze facendo finta che siano ancora pregiate. L'ultima citava Paolo Condò a SN. È anche vero che per ricostruire ci vogliono tempo e soldi, e il Milan credo non abbia né uno né gli altri, certamente non i soldi. Il tempo, vabbè, adesso l'epoca delle bugie è finita e ora vedremo, però ci sono anche altre squadre in Europa, cito lo United, che sono alle prese con problemi di ricostruzione. Paolo. Sì, ma come si dice, chi non ha testa a gambe, perché una delle due cose deve avere per forza, o tempo o soldi, una delle due devi avere. Ovviamente se hai soldi ti comporti come il Milan si è comportato per tanti anni durante questa gestione, se non li hai devi dare tempo ai tuoi giocatori di costruirsi in casa. Questo io, quello che voglio dire è che basta con questi vecchi campioni, perché Essien è stato un campione, però voglio dire, il discorso per Essien vale in misura minore, perché Kakà ha dato qualche cosa al Milan in questa stagione, ma comunque vale anche per Kakà, ma vale per Mexès. Cioè, Mexès guadagna delle cifre col fatto che è stato preso a parametro zero, che sono assolutamente incoerenti con quello che è il suo rendimento. E il problema del Milan, d'accordo, non spende più nulla per comprare giocatori, o quasi sempre, però non è che puoi indovinare ogni anno dei parametri zero di alto rendimento. Certo, è arrivato il momento, voglio dire, adesso deve giocare sempre a Cristante. Non voglio più vedere Sien nel Milan da qui alla fine della stagione, voglio vedere Cristante in tutte le partite. Voglio vedere almeno un paio dei ragazzi che hanno vinto il Viareggio con Inzaghi. Saponara, ma poi la qualità esiste Saponara, anche. Esatto. La qualità voglio esiste vedere, anche perché. Anche per capire. Anche perché De Sciglio, per esempio, che insomma è sempre un po' sulla linea di confine con la lista infortunati, però De Sciglio è un giocatore che a me piace moltissimo. È stato costruito lì, gli è stato dato spazio, merita, e io credo sarà il laterale della nazionale ai mondiali se non. Anch'io penso, però la cosa fondamentale con i giovani È chiaro che tu non è che puoi buttare dall'oggi al domani un giovane in un ottavo di finale in Ma, trasferta sicuro. Di Champions League, però nel momento in cui tu hai chiuso tutti gli obiettivi, Milan non ha più nulla, nulla da chiedere a questa stagione, se non fare un casting di quelli che sono i giocatori dell'attuale rosa, io ritengo che non più di 8-10 giocatori possano rimanere e non certo in posizioni da protagonisti nella rosa del Milan dell'anno prossimo. Senti Paolo, io ti chiedo una cosa. Prima del mercato volevo dire, fai un casting di 3 mesi ai giovani più meritevoli del tuo vivaio per capire se 2 o 3 di questi l'anno prossimo possono essere funzionali. Ti chiedo un attimo di pazienza, anche a Maurizio da Roma chiedo ancora un attimo di pazienza, ho il traffico, poi da Paolo Condò prima di lasciare andare al ristorante e poi ti mando Pardo, te lo prometto. Vorrei chiedere anche un parere su, stiamo parlando da tutta la trasmissione anche troppo, su Balotelli dopo il traffico. Tutti convocati. Allora, a beneficio di Paolo Condò, come informazione di servizio, mi segnalano diversi ascoltatori di SMS che Essien ha un contratto fino al 30 giugno di quest'anno a 1.2 e per tutta la prossima stagione a 2 milioni e mezzo, quindi questo per la cronaca. Balotelli non so quanto abbia ancora di contratto, però in questo momento è l'oggetto del fuoco incrociato di tutti, Paolo. Guarda, io sono rimasto molto deluso come tutti dal tipo di prestazione di Balotelli, non dal fatto che ha giocato male, giocare male capita, però naturalmente dall'atteggiamento di Balotelli. Però dopo aver detto questa cosa qui, dopo averci pensato bene, io credo che adesso per Balotelli si debba adottare un codice di valutazione esattamente opposto a quello che è stato fino a questo momento, e cioè sostanziale disinteresse per la sua vita privata, e questo già ce lo diciamo da tempo. Però per quanto riguarda la sua capacità tecnica, io smetterò di dire che è uno che ha dei colpi da fuori classe. Ecco, smetterò di dire questa cosa qui perché non è vera. E cioè lui ha fatto un gol da metà campo al Bologna, benissimo, un numero da circo, non da fuori classe, ha fatto un gol da metà campo al Bologna. E Balotelli adesso dal punto di vista tecnico, e ribadisco, parlo solo di quello, non me ne frega niente, dal punto di vista tecnico deve dimostrarmi di essere un giocatore forte e potenziale, perché un certo tipo di dote oramai di credibilità se l'è bruciata. Paolo... Quindi adesso voglio che lui dimostri fatti e non tweet. Senti, adesso ti mando Pierluigi Pardo, me lo tengo ancora 5 minuti poi te lo mando al ristorante. È arrivato un messaggio drammatico a garrambata, tra poco siamo dentro, tavoli fuori, solo 28. Sì. clamorosa. Vabbè, qui siamo al reality e quindi siamo assolutamente al reality. Ciao Paolo Condò. Ciao a tutti, voglio salutare mio caro amico Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ospiti e ascoltatori. Hai sentito Condò prima? Ho sentito la fine di Condò. Si parlava tanto per cambiare di Balotelli. Tanto per cambiare. E io mi auguro che tu mi chieda del Milan. Del Milan c'è qualcosa da salvare? Domanda difficile, c'è qualcosa da salvare? In questa stagione no, assolutamente no, se non il buon Poli, il buon Kakà, che stanno veramente, uno giovane, altro meno giovane, stanno cercando di cucire una squadra in difficoltà psico-fisica. Perché il Milan non è mai stato così in difficoltà sul piano fisico, ma lì do ragione a Clarence Seedorf quando dice: dopo tanti inseguimenti, dopo tante fatiche, alla prima difficoltà lotti una volta, lotti due volte, lotti tre volte, poi alla quarta, quinta rinunci. E il Milan in questo momento, alla prima difficoltà, vedi Udine, vedi ieri, vedi con la Juventus, la squadra proprio si sgonfia. Forse le gambe, forse la testa, più la testa che le gambe, secondo me. Tutte e due. Pier. Che faresti tu se fossi l'amministratore delegato unico del Milan? Nel senso che comunque tu ne hai viste tante in questi anni, sei giornalista, sei anche tifoso, sei coinvolto sia sentimentalmente che razionalmente. No, e guarda, soprattutto hai il polso anche della piazza, no? Cioè forse sarebbe più onesto dirti, ragazzi, ci facciamo 3-4 anni sereni di ricostruzione, progetto giovani, insomma, pure Ferguson me l'ha vinto subito. L'ho proprio scritto sul sito dove collaboro una volta alla settimana. Io dico, allora, soldi il prossimo anno non ci saranno degli investimenti, quindi non dobbiamo aspettarci Cristiano Ronaldo, eccetera. Abbiamo visto che la politica obbligata di Adriano Galliani, quella dei parametri zero, o meglio del costo zero e dei prestiti, fisiologicamente non ti può portare a una grande squadra, perché il prestito o il costo zero vuol dire che una squadra che ha lì un grande giocatore se ne libera e quindi non può essere un fenomeno assoluto. Quindi è una politica che alla fine paga a livello medio, ma non paga a livello Milan, cioè di arrivare ai massimi livelli. C'è la politica dei giovani, grande scouting, andare a vederli, controllare. Mi sembra l'unica politica. A me non affascina per nulla, perché la politica dei giovani secondo me non porta mai a grandi risultati. Vedi l'Arsenal uno su tutti, se ne parla sempre ma non vince mai. Quindi è una politica bella, ma mi sembra che però sia in questi 2-3 anni, tenendo le date di Pierluigi Pardo, è l'unica politica in questo momento, perché se non ci sono gli investimenti si devono andare a cercare i tanti poli, i tanti giocatori giovani in tutto il mondo. Mi sembra l'unica soluzione, ma sì, c'è anche una soluzione per il tecnico, cioè? Non voglio essere lungo, io Zeedorf, l'ho detto oggi, è lo Zenit e il Nadir. Con Zeedorf puoi arrivare allo Zenit là in alto, puoi scendere al Nadir, hai visto che anche come calciatore non era l'uomo delle mezze misure. Io mi affiderei a lui piuttosto di vivere nel limbo, visto che non arriveranno grandi giocatori. Spero nel suo exploit, nella sua grande cosa. Se per caso è una speranza vana, pazienza. D'altra parte, io sono d'accordo. Piuttosto volevo, anche girando a Pierluigi Pardo, volevo un commento su quanto ho detto prima, e cioè mi sembra che stia facendo in questo momento fatica nel passaggio da giocatore ad allenatore, che è difficilissimo, però insomma, nelle parole e nelle scelte mi sembra sia stato fino ad ora un po' troppo buonista. Che ne dici, Pier? Sì, la novità era anche una novità mediatica, anche una novità di fascinazione, di filosofia. Zeedorf è un personaggio così, sicuramente è arrivato per portare anche questo, però poi il problema è la sostanza fino ad oggi è poca, questa è la verità. No, in generale questa situazione del capire anche quanto è strano il calcio, quanto è diverso da qualsiasi altro business, perché in realtà il Milan, il tifoso che potrebbe avere la pancia piena per questi 25 anni è il tifoso del Milan, sì, non ci sono dubbi, no? E quindi in un mondo normale, in un qualsiasi altro contesto, 25 anni fa utili dal punto di vista di trionfi come quelli che ha fatto il Milan, potrebbe anche dire facciamoci 3-4 anni sereni di costruzione tranquilla. Non è un problema, credo i tifosi del Milan accetterebbero questo. L'importante è non raccontare siamo la squadra più titolata al mondo, puntiamo alla Champions, puntiamo allo scudetto, quando non è vero. Perché per esempio Carlo, di cui fido, giustamente dice cerchiamo comunque è un allenatore che possa comunque, diciamo, solleticare certe ambizioni e certe fantasie, sì. Non ci affidiamo direttamente ai giovani, ma proviamo a fare qualcosa di diverso, quindi è difficile accettare anche per un tifoso che ha vinto tantissimo, il tifoso rossonero, accettare il limbo, accettare il ritorno alla normalità, il ritorno alla normalità calcistica. Pier, ti lascio andare a mangiare, sennò con dopo non mi parla più. Ci sentiamo domani. Ciao. Io a Carlo Pellegatti invece ho 30 secondi per una risposta secca. Mi spiace, mi tocca chiedertelo, Carlo. Balotelli è un campione o no? Balotelli è un campione, no. A colpi da campione, a colpi da campione, però il campione è la continuità, il campione è il trascinare la squadra quando la squadra è in difficoltà, sì. Il campione è l'esempio, il campione è il carisma, lì Balotelli non lo è ancora. Paolo Condò diceva sono un po' stanco di aspettarlo, dipende solamente da lui. Vedi, ieri qualcuno ha detto che è stata la peggior partita, la gente si dimenticava Milan-Bologna, salvato dal gol. Per il passaggio geniale a Poli è stato un passaggio. Però il campione è Shevchenko, la sì. Continuità. Tu hai ragione. Grazie Carlo, abbraccio. Grazie Carlo Pellegatti, ci fermiamo per il giornale radio, poi torniamo. 800-24-0024, io aspetto qui. Tutti convocati. Ora, Conte ha parlato prima della partita con la Fiorentina e ha cercato di, insomma, di riaprire il discorso scudetto. Non ci crede neanche lui, secondo me, quando dice l'accresciuto vantaggio sulla Roma non cambia nulla, la partita scudetto non è ancora chiusa, restano 11 gare, 33 punti, ne riparliamo alla fine del prossimo ciclo di trasferte e gli incontri ravvicinati tra campionato e Coppa. E questo è il rumore del naso che cresce. Va bene. Conte sui tifosi dice anche: quale appello posso fare contro un tipo violento? Uno solo. Ricordo che tifare per la propria squadra è la cosa più bella del mondo, e gli avversari, meglio ignorarli, può fare più male che offendere. Vi do, mi hai detto, c'è Enrico? Enrico da Milano lo chiamiamo subito in causa, 800240024. Vi do invece un'altra dichiarazione che mi sembra più interessante di quella di Conte, riguarda Schumacher, e come ho detto io qui ho deciso di attenermi alla stretta cronaca, quindi vi do le notizie così come escono e quando escono, perché la sua manager Sabine Kemm ha detto: siamo e restiamo fiduciosi che Michael si risveglierà, ci sono ogni tanto dei piccoli segnali incoraggianti. È sempre stato chiaro che questa lotta sarà lunga e difficile. Enrico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Non so se sono arrivato fuori tempo massimo. Ma che fuori tempo massimo? Ma quale? Non c'è un tempo massimo, cioè, o meglio, c'è tra 10 minuti. Volevo divinare qualcosa su Balotelli. Sì. Nel senso che sull'analisi mi sembra che vi siate già tottamente espressi. Vorrei divinare un paio di cose. La divini prima, che che il Milan stanno iniziando le scale sante, le giaculatorie, e la speranza faccia un buon mondiale e che arrivi poi una decente, decorosa offerta per sbolognarlo. Sì. Che mi sembra la cosa più logica, perché ormai ha rotto le scatole al Milan tanto quanto al Manchester City, tanto quanto all'Inter, ormai è insopportabile, è insopportato. La seconda, più a medio lungo termine, che farà la fine di Cassano, un paio d'anni in una squadra, paio d'anni in un'altra squadra, sì, rimarrà un'eterna promessa. Però Enrico, una differenza sostanziale tutto sommato esiste, no? Cioè Cassano nel Real Madrid, nel Milan, nell'Inter, nelle grandi squadre che ha attraversato non ha lasciato traccia ed è passato di lì quasi per caso. Alla fine questo disgraziato qualcosa l'ha anche vinta, no? Con l'Inter, con il Manchester City, pur da attore non protagonista, eccetera eccetera. Quindi non lo so, magari farà un grande mondiale, un buon mondiale, un mondiale che possa rivalutarlo, questo non lo so, magari il Milan lo venderà. Però io dico, in questa squadra, nel nulla, nel vuoto pneumatico di questa squadra, vendi Balotelli e poi che cosa ti resta? Chi fai giocare? Chi valorizzi? Che cosa c'è in questa squadra? Io continuo a pensare che lui, pieno di difetti, sotto accusa giustamente, quello che volete, non sarà mai un leader, perché non sarà mai un leader, perché non ha le caratteristiche, diceva prima Pellegatti citando altri giocatori, sono quelli che i leader sono quelli che ti trascinano, quelli da cui vai nei momenti difficili. Balotelli non sarà mai questo tipo di giocatore, neanche dal punto di vista non solo emotivo ma nemmeno tecnico. Questo non lo sarà mai, ha tutti questi difetti, però secondo me, se vuoi ricostruire qualcosa, parti da questo povero disgraziato, cioè 23 anni, e poi magari gli compri qualche altro giocatore. E se vuoi aspettarlo, lo aspetti, se lo vuoi vendere, lo vendi. Ma voi siete poi così sicuri? Cioè, provate a chiudere gli occhi. Allora, Vicente Calderon, ieri sera, Cristiano Ronaldo con la maglia numero 45, ma secondo voi sarebbe cambiato molto in quella partita? Perché stiamo parlando quasi esclusivamente del grande imputato, va bene, non so se sia capro espiatorio o no, ma a me pare che il Milan in questo momento sia una squadra inesistente, con un centravanti che fa la sua parte nell'essere discretamente inesistente. Luca. Sì, ciao, buongiorno, ciao. Grazie di avermi dato l'opportunità. Volevo fare un paio di considerazioni. La prima, sono perfettamente d'accordo con la disamina, perché ieri sera non sarebbe cambiato assolutamente nulla, non solo con un grande centravanti ma forse anche con due o tre grandi nomi, perché arrivavamo a un punto tale dove mi sembrava di vedere il Milan col Deportivo di qualche anno fa. Sì, ha ragione. E che soprattutto dove noi dovevamo recuperare la partita e in difesa ci facevamo recuperare dalla squadra avversaria che nonostante tutto, nonostante vincesse già 3-1, pressava in tutti i fronti. Verissimo, ma poi siamo qui a criticare giustamente il numero 45, ma vogliamo parlare di Essien, di quella palla che ha perso sul primo gol, vogliamo parlare di dove era Rami ieri sera? Rami è un giocatore modesto, Essien è un ex giocatore o sulla strada per diventarlo, dunque sì, va bene, crocifiggiamo pure il numero 45, se lo merita sportivamente parlando, per la partita di ieri sera, però alla fine non è che questi hanno fatto meglio, poi comunque lei, Luca, sa benissimo, prima ho citato la partita col Deportivo, io prima ho citato altre due stagioni disgraziatissime in cui il Milan era in queste condizioni o peggio ancora, no, con il Sacchi bis, con il Capello bis, decimo posto in campionato, undicesimo posto in campionato, fuori dalle coppe, fuori dall'Europa, fuori da tutto, fuori con il Rosenborg in Champions, eccetera eccetera eccetera, poi da lì si è ricostruito, erano altri tempi e c'erano altri denari, però non è la prima volta che il Milan nell'ultimo trentennio tocca al fondo, la sensazione piuttosto che in questo caso sarà molto più difficile risalire. Giulio, pronto? Sì, dica. Sì, buonasera. Anzi, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere innanzitutto, siccome simpatizzo Sassuolo, secondo voi che possibilità può avere di salvarsi? Seconda cosa, volevo riprendere un attimo il discorso di Balotelli. Da buon interista non lo posso tanto vedere, però dico una cosa. Ieri sera gli è arrivata una palla giocabile in mezzo a due uomini e Diego Costa è stato in area di rigore 5 volte da solo. Sì. Cioè, con giocare con l'albero di Natale fantasia si fa fatica. Cioè, Balotelli... Bisogna correre, va servito. Ma guarda, di buttare la palla avanti, è vero, però lui per le sue caratteristiche va servito, ma neanche tanto, più che altro ha bisogno di spazio, perché lui è uno che il gol è in grado di crearselo anche da solo, piuttosto questo Milan non segna mai, cioè nelle ultime partite abbiamo detto buona partita con la Juventus 0-2. Buona partita con il Deportivo La Coruña, con il Atletico Madrid all'andata, vero, 0-1. Ha giocato una discreta partita a Genova contro la Sampdoria, forse nella sua peggiore versione da quando c'è Mihajlovic, e lì ha vinto col Bologna un disastro e si è inventata una roba Balotelli. Ha ragione lei, Giulio, io sono d'accordo, cioè non solo Balotelli ma un centravanti tendenzialmente bisogna pure dargli i palloni, se no quello che fa? Cioè, poi diamogli pure quattro in pagella, diciamo che è un cretino, ma se ha un attaccante, è per quello che dico, non sono così convinto che con Cristiano Ronaldo o chi volete, ditemene uno, Messi, Van Persie, vabbè, adesso Van Persie è rotto, chi volete, Ibrahimovic, con Ibrahimovic ieri sera sarebbe cambiato qualcosa? Secondo me no. Allora, andiamo a Napoli venerdì. Andiamoci subito. Quando ero bambino, negli studi Ponti De Laurentiis fu ricostruito tutto il set dell'Oro di Napoli. La cosa mi rimase impressa quando girato l'Oro di Napoli, e quando a un certo punto ci fu l'ultimo episodio che si concludeva con proprio l'esaltazione del Pernacchio. Figlio mio, c'è Pernacchio e Pernacchio, anzi vi posso dire che il vero Pernacchio non esiste più, quello attuale, corrente, quello si chiama Pernacchia, prima era cosa volgare, brutta, il Pernacchio classico è un'arte, il Pernacchio può essere di due specie, di testa e di petto. Ma nel caso nostro li dobbiamo fondere, deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Insomma, Pernacchio, che facciamo a questo signore, deve significare tu sia schifezza l'uomana. Mi spiego? Tu, Alfonso Maria di Sant'Agata dei Colonari! Madonna! Beh, io ne rimasi folgorato, affascinato. Il Pernacchio era un fatto filosofico che poteva nascere dal cervello e dal cuore, così è stato, e doveva stato essere chiarito, rappresentativo di tutto quanto il rancore che si poteva e si doveva portare contro chi non aveva avuto il rispetto per l'altrui persona e per la dignità dell'altrui persona. l'oro De Laurentiis. Spero che possa venire anche lui, anche il presidentissimo, venerdì, quando saremo lì a Napoli. Il mio sogno è un programma itinerante in ogni angolo d'Italia. Venerdì a Napoli, mercoledì prossimo saremo a Bari e poi chissà, certamente andremo anche a Verona. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Arriviamo a trovarla Vinitaly, tra un po', aprile, certo. Saremo lì. Sono un vecchio milanista da tanti anni. Io vorrei dire due cose veloci. Uno, da quando ha venduto Thiago Silva e Ibrahimovic è difficilissimo a competere. E poi, giustamente, anche con Cristiano Ronaldo non sarebbe cambiato niente. Una squadra deve avere 6 o 7 fuori classe per competere. Dopo può esserci il Colombo, Nocerino della situazione, giocano bene anche loro. Sì. Se no, non ce la fanno. Tutto qua. Il Milan ormai, purtroppo, noi tifosi, ieri sera non l'ho vista neanche tutta, purtroppo, la partita. Perché per chi ha visto, era un po' deprimente, grandi, era un po' deprimente. Anni grandi, dice, ammettiamo i nostri limiti, è tutto qua. Cambiare allenatore, secondo me, non serve a niente. Quando dice? Cambiare allenatore adesso, lei dice? No, anche cambiando con Seedorf, cioè non cambia, no, tanto, non puoi oggi. Anche i grandi allenatori devono aver bisogno delle grandi squadre. Abbiamo visto. Questo è sicuro, guarda, questo non ci piove, cioè per fare grandi squadre ci vogliono i giocatori. Poi l'ha detto Cappello in maniera molto secca, molto chiara, quasi paradigmatica l'altro giorno. Ho sentito, allora tu puoi essere il più bravo allenatore del mondo, ma se non hai i giocatori non vai da nessuna parte. E infatti il Milan non va da nessuna parte. Io spero invece che andrà da qualche parte la Juventus o la Fiorentina, e lì comunque già un passo verso un finale di Europa League ce l'abbiamo, e pure il Napoli che giocherà a Porto domani sera, e noi saremo lì venerdì, vi ricordo, a raccontarvelo. Veniteci a trovare, ma domani qui da Milano alle 2, dopo il GR delle 2, per chiacchierare di nuovo insieme. Ciao a tutti, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia.